Sol, si. Si. Sua grazia vuole me. E mentre lontana se brutto sembra. E quando così si tu parole di nuvola a nuvola più chiara tra le nere ombre a placar di follia di troppo sole, sol, si. Sua grazia no. Orologi scandite, tempi di vette ardite, memorie irte, arte e parte, maestria secretate, vostra beltade. Ammirate, ammirate, ammirate, l'angelo bello che con ali dall'oro e vello sente dalle albe luci e salti in là ove paradiso e staticità. Voracità. Di donna, te che cammini in peritura chiunque tu sia nella mia sogna, tortura di non averti mia, agognata meta al cuor che del mondo sei, sia dolce pace al calor, che gelosia d'amor, che d'odio e Dio. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Siamo energia unita, tu e mia, in bacio di sole, di Dio il bagliore, sossi grazie sul dono.